giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e l'ex omologo sloveno Borut Pahor a Trieste per ricevere la laurea honoris causa in giurisprudenza dall'Università. Ad accoglierli il Rettore dell'Ateneo e i Ministri Bernini e Ciriani. Durante la proclamazione nell'Aula Magna è stata proiettata la foto risalente al 13 luglio 2020 quando i due Presidenti si tennero per mano a Basovizza. Ricordare gli avvenimenti che hanno così profondamente inciso con dolore sulla vita delle popolazioni al confine orientale significa anche rispettare i patimenti altrui. Le ferite causate dalle tragedie del Novecento non si possono cancellare, ha detto il capo dello Stato nel suo intervento. In calo la vendemmia in regione nell'ultimo anno, ma resta positivo l'export con una media che supera quella italiana. Militari della Brigata Ariete di Pordenone si stanno esercitando nell'area addestrativa Cellina Meduna, pronti a partire per la difesa del fronte est della NATO in Bulgaria per dare il cambio ai colleghi presenti già da mesi sul posto. Il cluster Scienze della Vita Friuli Venezia Giulia ha organizzato questa mattina all'Urban Center di Corso Cavour a Trieste un evento allo scopo di illustrare il quadro degli strumenti finanziari messi a disposizione dalla regione. Inaugurato questa mattina a Udine un grande murale realizzato dagli studenti della scuola Ellero e della scuola di edilizia ed arte. A Pordenone è visitabile la mostra antologica dedicata a Mario Sironi, uno dei maestri del Novecento italiano. Portare un po' di colore dove il colore mancava è il sogno quasi realizzato della Pallacanestro Trieste che tra qualche giorno inaugurerà un nuovo campo di basket nel rione cittadino di Valmaura. Nel fine settimana arriva il gran caldo con temperature che sfioreranno i 30 gradi, ma già da lunedì ci sarà un brusco cambiamento delle condizioni meteo con l'arrivo della pioggia e della neve. Le 12:32 minuti, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e da Lorenzo Gherinzoni per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 12 aprile. In apertura dunque la visita a Trieste del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato questa mattina all'Università, dove nel corso di una cerimonia che è ancora in corso in Aula Magna gli è stata conferita la laurea honoris causa in giurisprudenza assieme all'ex Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor. Ad attenderlo in Piazzale Europa la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani e il rettore dell'Università di Trieste Roberto Di Lenarda, oltre alle massime autorità regionali e cittadine. Durante la proclamazione nell'Aula Magna è stata proiettata la foto risalente al 13 luglio 2020 quando i due presidenti si tennero per mano a Basovizza. La stretta di mano e l'applauso degli studenti seduti sulle scale di Piazza l'Europa, dove la bora ha animato la grande bandiera italiana issata sul pennone, e poi l'ingresso in un'aula magna gremita ad accoglierlo, il coro che ha cantato l'inno italiano e poi quello sloveno. Un grande benvenuto, quello che l'Università di Trieste ha dato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno della laurea honoris causa in giurisprudenza, a lui e all'ex capo di Stato sloveno Borut Pahor. A leggere la motivazione il direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Giampaolo Dolso. Mattarella e Pahor hanno saputo coraggiosamente ripudiare la prospettiva angusta dell'egoismo nazionalistico per proseguire in una politica di riconciliazione. La fotografia proiettata sugli schermi dell'Aula Magna commuove la platea di oltre 500 persone, poiché resta indimenticabile quel 13 luglio di 4 anni fa, quella stretta di mano a Basovizza sul Carso Triestino tra i due capi di Stato e poi la riconsegna del Narodni Dom alla comunità slovena dopo 20 anni di stallo, nonostante una legge del 2001 ne imponesse la restituzione. A permettere la riconciliazione, ha dichiarato il rettore, la lungimiranza dei presidenti, ma lo dico con orgoglio, anche la capacità della nostra università di cogliere un'occasione storica pur senza sofferenze esterne ed interne. L'Università di Trieste è stata fondata 100 anni fa esatti, ma la prima pietra della sede centrale, che appunto ospita la cerimonia di oggi, è stata posta nel 1938 in uno dei momenti più bui della storia del continente europeo, è stato ricordato nella Laudatio. Quella pietra sta ancora lì a ricordare le tragedie, le sofferenze, le divisioni che le negazioni di libertà e uguaglianza hanno prodotto. L'ex presidente della Repubblica Pahor, nel suo discorso in sloveno, ha parlato del suo caro amico, così definito più volte, Mattarella. Senza il suo fermo attaccamento ai valori che condividiamo, senza la sua ampiezza intellettuale, sarebbe stato impossibile arrivare a questi risultati. E poi in italiano ha aggiunto, rivolgendosi proprio a Mattarella: in politica non c'è spazio per l'amicizia, ma ho avuto fiducia in te. Nei momenti più difficili mi hai insegnato che si può andare avanti. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Lungo il percorso compiuto in questi 30 anni, Slovenia e Italia hanno saputo abbattere barriere e ostacoli, riuscendo a superare la nozione stessa di confine. Al suo posto c'è l'Europa, spazio comune di integrazione, di dialogo, di promozione dei diritti, di una cultura condivisa che si nutre delle diversità e ne fa punto di forza. A dirlo proprio poco fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa a lui e a Borut Pahor, già Presidente della Repubblica della Slovenia. L'integrazione slovena nelle istituzioni europee è stato un evento di straordinario successo, ha detto. Nell'arco di una generazione, Lubiana ha compiuto un percorso che oggi la fa sedere con autorevolezza nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto. Il suo esempio costituisce riferimento per i paesi oggi candidati all'ingresso nell'Unione Europea. Il Presidente Mattarella, nel suo intervento che è tuttora in corso, ha sottolineato che le dinamiche geopolitiche in Europa hanno conferito un rinnovato slancio al processo di completamento dell'Unione. Il progetto europeo è più che mai imprescindibile e urgente anche alla luce della brutale e ingiustificabile aggressione della Federazione Russa ai danni dell'Ucraina. Ciò vale, ha detto Mattarella, non solo nei confronti di Ucraina, Moldova e Georgia, ma soprattutto dei paesi dei Balcani occidentali che in oltre 20 anni hanno iniziato questo impegnativo percorso di integrazione. E chiudiamo questa pagina dedicata alla visita del presidente Mattarella e dell'ex capo di Stato sloveno Pahor a Trieste per parlare della Fiera del Vinitaly, uno dei principali appuntamenti dedicati al vino e all'enologia nel continente. La nostra regione sarà presente dal 14 al 17 aprile a Verona con un apposito stand per illustrare le proposte delle produzioni del settore vitivinicolo, che nell'ultimo anno registra però appunto in regione un calo della produzione. Resta positivo l'export con una media che supera quella italiana. Il dato ora è ufficiale, elaborato in queste ore dall'Unione Italiana Vini. La vendemmia 2023 ha fatto segnare in Friuli Venezia Giulia un meno 27,5% dei volumi rispetto all'anno precedente, 1.600.000 ettolitri, un calo più vistoso rispetto al resto d'Italia, meno 23%, e rispetto al nord del paese, meno 10%. Sapendo di avere meno bottiglie a disposizione, cambia la gestione della cantina per il Vinitaly, indica Paolo Valle, imprenditore e vitivinicolo e presidente del consorzio Colli Friuli Orientali. Da oltre 50 anni presente come azienda a Verona, si prepara alla partenza. Sapendo che c'è poca vendemmia, la prima cosa da fare è cercare di tenersi del vino in cantina, aggiunge. Una volta era quasi blasfemo non presentarsi con bottiglie dell'ultima annata agli assaggi. Oggi, col cambiamento climatico, abbiamo a che fare con uve più mature che ci permettono una diversa gestione della cantina. La ribolla gialla, per esempio, è meno acida e più zuccherina perché matura di più, e così possiamo arrivare al Vinitaly anche presentando agli assaggi di inglesi e americani ribolle, chardonnay e pinot grigi più meditati, più invecchiati. Siamo in un momento in cui il bianco sta tenendo meglio del vino rosso, dove minore gradazione alcolica e facilità di consumo sono privilegiati, confermano da Unidoc, che quest'anno gestirà operativamente gli allestimenti a Verona per la regione Friuli Venezia Giulia. Un fatto positivo, secondo Valle, che la regione abbia dato fiducia a un'entità che rappresenta tutti i consorzi del Friuli Venezia Giulia. I produttori saranno difatti sempre più responsabilizzati, in prima persona, nell'esplorare nuove opportunità di mercato. Butrio, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Militari della Brigata Ariete di Pordenone si stanno esercitando nell'area addestrativa Cellina Meduna, pronti a partire per la difesa del fronte est della NATO in Bulgaria per dare cambio ai colleghi presenti già da mesi sul posto. Parte da Cordenons il maggior numero dei 750 soldati ora impegnati in Bulgaria, a Novoselo, nella difesa del confine orientale dell'Europa. Il 132esimo reggimento carri, artiglieria terrestre e contraerei. Altri soldati della Brigata Ariete di Pordenone si stanno esercitando giorno e notte nell'area addestrativa Cellina Meduna, pronti a partire prossimamente per il fronte est della NATO e dare il cambio a chi è in Bulgaria da febbraio. Il reggimento bulgaro non è il solo, la NATO ha rafforzato il fianco est dell'alleanza con nuovi gruppi anche in Ungheria, Romania e Slovacchia, con un totale di 300.000 uomini. Da quando l'Italia ha assunto la guida del gruppo multinazionale in Bulgaria, si conferma tra i paesi che più contribuisce in termini di mezzi, uomini e risorse nella missione preventiva contro un eventuale attacco russo ad un paese dell'Unione Europea. Nei prossimi mesi il contingente bulgaro supererà le 1000 unità, grazie anche all'invio ulteriore di militari italiani. Eppure cresce nell'opinione pubblica la paura per la guerra e la volontà di non essere coinvolti come paese Italia in missioni militari all'estero, un rifiuto che potrebbe diventare sempre più esplicito, come emerso dal recente sondaggio SVG, Società Demoscopica Triestina. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. E sentiamo adesso un momento dell'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella durante la cerimonia che è tuttora in corso all'Università di Trieste. In questi anni Slovenia e Italia hanno sviluppato un dialogo costante e fruttuoso, alimentato dalla consapevolezza che la comune adesione e appartenenza alla Casa Europea e i valori euroatlantici rappresentino quell'elemento identitario che rafforza nei nostri paesi lo sguardo verso il futuro. La Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana debbono essere orgogliose delle mete raggiunte in questi anni. Incontrarsi non è stato scontato e non sono mancate incomprensioni lungo il percorso. Difficoltà che tuttavia non hanno impedito ai nostri paesi di progredire costantemente, dando vita a un partenariato profondo e articolato che ci vede lavorare fianco a fianco sui temi prioritari dell'agenda europea e internazionale. Slovenia e Italia hanno saputo abbattere barriere e ostacoli, riuscendo a superare la nozione stessa di confine. Al suo posto c'è l'Europa, spazio comune di integrazione, di dialogo, di promozione dei diritti, di una cultura condivisa che si nutre delle diversità e ne fa punto di forza. Con la designazione congiunta di Nova Gorica e Gorizia quale capitale europea della cultura del 2025 è stata scritta una nuova importante pagina della nostra storia. Abbiamo sentito una parte del discorso pronunciato proprio poco fa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel ricevere la laurea honoris causa in giurisprudenza dell'Università di Trieste assieme all'ex omologo sloveno Borut Pahor. Il Presidente Mattarella sarà poi in prefettura prima di lasciare la nostra regione. Europa andata e ritorno, imprese e persone, un'analisi sulle potenzialità del nostro territorio, il titolo del convegno promosso e organizzato dal gruppo Giovani Imprenditori del Friuli Venezia Giulia di Confcommercio a Villa Russitz, Capriva del Friuli, a partire dalle 17. Il cluster Scienze della Vita Friuli Venezia Giulia ha organizzato questa mattina all'Urban Center di Corso Cavour a Trieste un evento allo scopo di illustrare il quadro degli strumenti finanziari messi a disposizione dalla Regione. Solo l'1% dei ricercatori italiani diventa imprenditore. L'obiettivo è arrivare al 10% come in Germania, Francia e Svizzera. È lo spirito alla base dei bandi di finanziamento messi in campo dal cluster Scienze della Vita, gestito dal Polo Tecnologico Alto Adriatico, fondi europei indiretti che passano per la regione Friuli Venezia Giulia per sovvenzionare investimenti alla ricerca e all'innovazione delle imprese della regione. Due i filoni principali dei bandi, uno trasversale rivolto ad aziende di ogni settore per finanziamenti a fondo perduto che favoriscano la trasformazione digitale delle imprese, 13 milioni messi per ora a disposizione e una finestra che si chiude il 30 aprile. Stefano Puissa, TMB Associati. Lo scopo di questi bandi è andare a supportare, a stimolare le imprese ad affrontare dei progetti sfidanti che presentano delle difficoltà che probabilmente con finanze proprie non verrebbero affrontati. Il secondo è dedicato invece all'ecosistema Scienze della Vita, che comprende imprese ma anche centri di ricerca del settore salute, dalla nutraceutica al farmaco. Il bando prevede un concorso con un premio di 10.000 euro per premiare i progetti più innovativi, anche opera di start-up e imprese da fuori regione. Stefano De Monte, Cluster Scienze della Vita, Friuli Venezia Giulia. Un piccolo premio anche in denaro, ma staccheranno un ticket per accedere a una seconda fase che è molto più importante e che è quella che permetterà a loro di sviluppare le loro idee nella nostra regione. L'intenzione è anche di andare oltre la ricerca di base e i finanziamenti aiuteranno anche imprese con progetti in fase di maturità per portarli verso il mercato. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono tante le iniziative portate avanti dal comune di Gradisca Disonzo in tema di sicurezza online e sui social. In particolare questa sera alle 18 al Polo Culturale di Casa Maccari si terrà un appuntamento dal titolo Identità Digitale, Fake News e Intelligenza Artificiale con Luca De Rosa di Social Working Warning, progetto del Movimento Etico Digitale. Ma quanto è importante la consapevolezza del rischio quando si naviga online? Sentiamo Luca De Rosa. Importanti assolutamente, perché viviamo ormai con il telefono o il computer al nostro fianco e sono diventate tutte tematiche per le quali ognuno di noi ogni giorno le affronta anche in modo inconsapevole, dall'intelligenza artificiale, le fake news, parliamo alla fine di giornalismo, e questo è sicuramente un tema caldo che porta poi le persone anche a fare azioni, ad avere pensieri per i quali possono fare a loro volta azioni verso la società non adeguate. Quali sono i rischi che si nascondono dietro queste tecnologie nelle quali ormai siamo immersi? Ma diciamo che tendiamo sempre a separare le cose tra online e offline. Questa cosa non esiste, non è mai esistita in realtà, e quindi quello che bisogna capire è che noi quando siamo online è come se fossimo davanti a dei nostri amici o dei nostri parenti, soltanto che stiamo parlando a tutto il mondo, e così per tutto quello che ne riguarda dell'identità. L'identità si tratta di qualcosa della quale dicono di noi online, ed è semplicissimo oggi anche falsificare le informazioni su di noi e falsificare informazioni di altre persone, e con poi conseguenze anche non curabili in futuro. Gli adulti si sono trovati ad utilizzare un mezzo, obbligati ad utilizzare un mezzo che corre più veloce di loro. I giovani invece diciamo che riescono a stare al passo con questa cosa qua, ma senza consapevolezza, e questo comporta i giovani a utilizzare lo strumento con leggerezza, la stessa leggerezza che ci si porta avanti durante l'adolescenza, con la possibilità di finire ad avere conseguenze gravi. Uno sguardo alle condizioni meteo, il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate poco fa. Trieste 22 gradi, il vento soffia a 33 km orari da est-nord-est, Bora, Gorizia 24 gradi, a Udine 23, a Pordenone 22. A Fondi di Sopra 18 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 20 gradi, a Terviso e Sappada 16, a Piancavallo 16 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 11 gradi, sul Monte Lussari 8, sulla costa a Lignano e Grado 23 gradi. E per sapere che cosa ci attende dal punto di vista del meteo nel fine settimana, sentiamo il previsore dell'ARPA, Marcellino Salvador. Fine settimana che sarà praticamente estivo sulla regione, cielo sereno poco nuvoloso, temperature in pianura che andranno quasi a sfiorare i 30 gradi di pomeriggio, valore intorno ai 28-29 gradi, sulla costa ovviamente non sarà così caldo, ma comunque andremo oltre i 20 gradi, venti in genere di brezza, zero termico oltre 3,5 fino anche a 4.000 metri, quindi anche sui monti tempo buono, qualche nuvolamento nel pomeriggio di domenica, ma nulla di più. Per quello che riguarda invece la tendenza per l'inizio della prossima settimana? Inizio prossima settimana le cose cambieranno, da prima lunedì con qualche pioggia sui monti, ma sarà soprattutto tra martedì e mercoledì che un fronte freddo dal nord Europa valicherà le Alpi, porterà il ritorno della neve anche a quote relativamente basse, specie nella notte tra martedì e mercoledì, che arriverà fino a 600 metri circa, con piogge abbondanti, qualche temporale e un abbassamento della temperatura importante che riporterà le cose nella norma, e questo succederà anche per tutto il proseguo della settimana, perché adesso appunto siamo su valori, quelli che vedremo in questo weekend, che sono eccezionali, decisamente alti, e che sono più da estate che non da primavera. Da dire che la temperatura del mare ieri, dopo praticamente due mesi, non ha stabilito il record storico che invece ogni giorno stabiliva nei due mesi precedenti dall'inizio di febbraio, a causa proprio della ventilazione di Bora che ieri ha fatto raffreddare momentaneamente la parte superficiale del mare. Inaugurato questa mattina a Udine un grande murale realizzato dagli studenti della scuola Ellero e della scuola di edilizia ed arte. Circa 40 metri di lunghezza per 4 metri di altezza, il murales realizzato dai ragazzi della Scuola dell'Edilizia dell'Arte di Udine, CEFS, e della Scuola Secondaria Ellero per rileggere Zigaina a 100 anni dalla nascita e riflettere sull'emergenza climatica, inaugurato oggi. Una grande opera di public art, progettata e realizzata dalle ragazze e dai ragazzi dei due istituti, partendo dalle opere d'arte musiva firmate dall'artista cervignanese che la scuola media già ospita. Musliu Admir, vicepresidente CEFS. Per terza volta consecutiva che ti stai impegnando in questa direzione, auspicando che questo diventa, diciamo, una prassi continua, che ci sia un nuovo orientamento del settore perché possa permettere ai ragazzi di esprimersi anche in questa maniera. Loris Zanon, direttore del CEFS. È un ottimo lavoro, noi siamo particolarmente soddisfatti in quanto i ragazzi attraverso questi laboratori didattici riescono ad esprimere la propria creatività in un modo originale e diverso. Un'opera corale che ha rappresentato le istanze e le preoccupazioni dei giovani. Heidi Principini, studentessa del CEFS. I ragazzi delle classi seconde e terze della scuola Ellero hanno voluto esprimere su questo murale il messaggio che purtroppo affligge tutti noi di questi giorni, riguardo appunto la situazione ambientale, che molte persone purtroppo fingono di non vedere, quando in realtà è molto importante parlarne. Ludovico Vittorio Gattolin, studente Ellero. Questo insegnamento al di fuori della parete della scuola è un altro modo didattico, specialmente per esprimere le nostre opinioni su questo ambito, su questo tema che è molto ricorrente al giorno d'oggi. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Spostiamoci ora a Pordenone per parlare della grande esposizione antologica dedicata a Mario Sironi. 35 opere, alcune tra le più rappresentative dell'artista e della sua epoca, sono esposte al Museo Civico d'Arte di Palazzo Richieri in Corso Vittorio Emanuele a Pordenone, nella grande mostra antologica Mario Sironi adorò il bello che mi offre l'arte e la natura, dedicata a uno dei maestri del Novecento italiano. L'evento è organizzato da Pordenone Fiere e Comune di Pordenone con il sostegno della Fondazione Friuli e in collaborazione con NEF Padova a cura di Galleria 56 di Bologna. Alberto Scarpazza, curatore. Troviamo tutto quanto dall'inizio della sua carriera nel 1900, a 15 anni, fino a tutta la satira politica, agli anni 37 quando era a Parigi con Picasso, all'illustrazione pubblicitaria, alla grafica, ai monumentali. Abbiamo un attimo un 360 gradi di tutto quello che può essere Mario Sironi. La mostra sarà aperta al pubblico dal 13 aprile al 26 maggio. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Tilt, esaurimento globale, è lo spettacolo comico che l'attrice Deborah Villa porta in scena questa sera alle 20.30 al teatro La Contrada di Trieste. Nel turbinio incessante di notizie catastrofiche, la risata diventa un faro di speranza, un atto di sopravvivenza emotiva, ha spiegato l'attrice ai nostri microfoni. Sentiamola. Innanzitutto dare una considerazione profonda che siamo tutti esauriti, perché ho scoperto di non essere l'unica, ahimè, e quindi ho cercato di fare di questo mal comune un mezzo gaudio. E quindi mi sono interrogata sui motivi dell'esaurimento che ci sta attanagliando l'anima e soprattutto dal post pandemia. E ho scoperto che di motivi ce ne sono tanti, perché le persone costruiscono le società, che ben venga la costruzione delle società, siamo anche nella parte fortunata del mondo, però di fatto sono società costruite un po' su pensieri ovviamente arbitrari e non sono perfette. Questa cosa ci tritura un po', ci schiaccia, vedi le tasse, vedi il lavoro, vedi il traffico, e quindi i motivi di esaurimento, diciamo, sono molteplici. A questo punto ho detto, c'è un modo per venirne a capo, cioè del perché, del per come, da dove siamo partiti, e allora faccio tutta una disamina, è un viaggio immaginario nel mio cervello, quindi è un viaggio che dura pochissimo perché c'è veramente poco nel mio cervello, quindi è proprio un'oretta scarsa. No, non è vero scarsa, un'ora e mezza di spettacolo, però diciamo che insomma il cervello è quello che è, e instauro un dialogo con il mio cervello, perché il mio cervello mi cerca di darmi delle risposte, cerca di indirizzarmi, cerca di farmi capire perché siamo arrivati a questo punto. Allora c'è la storia del primo esaurito dell'umanità, poi c'è la scuola, poi c'è la società, poi c'è la ricerca della felicità, la discriminazione, tutte queste cose, addirittura canto a un certo punto, un pezzo freestyle che mi ha scritto Shade, mi ha regalato questo pezzo stupendo che si chiama La forza delle donne, per arrivare alla fine e capire che ragazzi siamo tutti sulla stessa barca, ma vogliamo darci una mano anziché metterci i bastoni tra le ruote l'un con l'altro, e che se facessimo questo una piccola speranza ce l'avremmo. Basket 2 per il penultimo turno della fase orologio. Questa sera scende in campo la Gesteco Cividale, che affronterà in casa la Novi più Casal Monferrato alle 20:30. Il match sarà anche l'ultimo al Palagesteco prima della fase playoff layout, in quanto nel turno successivo i ragazzi di coach Pilastrini saranno impegnati nella trasferta a Vigevano. Portare un po' di colore dove il colore mancava, il sogno quasi realizzato della Pallacanestro Trieste, che il 19 aprile inaugurerà un nuovo campo di basket nel rione cittadino di Valmaura. Quartiere di Valmaura, il cuore in campo, dove il cuore ce l'hanno messo tutti. Pallacanestro Trieste ha lanciato la proposta e l'idea è inevitabilmente piaciuta a tutti, alla Fondazione Pietro Pittini, alla parrocchia, all'Ater. Ma la dedizione e la creatività sono quelle dei ragazzi della scuola edile ed il master di Trieste, supportati dai protagonisti dell'associazione Oltre quella sedia. È molto bello perché ogni volta che facevamo qualche modifica andavamo su a controllare, no? E per chi vive sopra, no? Vedere questo progetto è spaziale secondo me, perché vedere tutto in questo posto tutto grigio, vedere questo rettangolo di colore è una delle cose che suscita orgoglio un po' anche. Come è nato questo disegno? Cosa hai pensato? A cosa ti sei ispirata? Abbiamo osservato in realtà tutte le scritte che sono tutti i graffiti che ci sono sul muro, e da lì abbiamo preso tutte le scritte. Siamo andati a scuola, abbiamo stampato le scritte, poi abbiamo strappato i fogli, abbiamo unito ed è nato questo. Quello che è nato in realtà è molto più di un campo da basket. Io penso che questo sia un luogo importante da quale ricominciare anche un dialogo, da quale ricominciare a conoscersi, a parlarsi, e come abbiamo collaborato tutti insieme nella creazione di questo evento, nella pulizia di questo campo, così sia anche un segnale per tutti quanti. Anche il quartiere può essere una squadra della quale anche i giocatori di pallacanestro vogliono far parte. Siamo qui perché vogliamo bene alla nostra comunità, dobbiamo far parte di questa comunità e dobbiamo contribuire a migliorare il quartiere incominciando da questo campo. Dobbiamo essere di ispirazione per i giovani non solo con lo sport ma anche con i nostri gesti. È una nuova opportunità, nel senso non ce ne sono tanti, non... I campetti, i luoghi comuni presenti in città non si rinnovano, sono sempre gli stessi, e soprattutto averne uno così vicino al palazzetto e vicino a casa nostra può essere una cosa molto, molto interessante, un plus, perché speriamo di averli poi anche al palazzo vicino a noi a sostenerci. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. E per gli spettacoli al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, di scena Silvio Orlando, protagonista della commedia Ciarlatani, capolavoro del pluripremiato regista madrileno Pablo Remón, alle 20:30. E si chiude così questo appuntamento con il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Lorenzo Garinzoni e Giorgio Bearz, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Eugenio Giuffrida e Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Grazie per la cortese attenzione. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. A tutti voi l'augurio di un buon venerdì. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.